Se non fosse stato per te, sarei rimasto quello che amava andare contro il vento, oh, controcorrente. Tra quanti mai quali, se e i tuoi dubbi hai messo anche me, che preferivo il silenzio, oh, al tuo rumore, al tuo rumore. Questa è la tua vita, tua vita, che va tutto bene anche se così non è. Questa è la tua vita che va tutto bene anche se così non è. Le tue vie di mezzo è tutto nero, tutto bianco, mentre fuori il mondo è pieno di colori. Questa è la tua vita che va tutto male anche se va tutto bene. Il mondo è pieno di colori, ma per te, ma per te, ma per te. E se così non è, ci sarò sempre per te, anche quando dici che non sono più lo stesso, oh, vado controvento. Questa è la tua vita che va tutto bene anche se così non è. Oh, al tuo rumore. Questa è la tua vita che va tutto bene anche se così non è. Le tue vie di mezzo è tutto nero, tutto bianco, mentre fuori il mondo è pieno di colori. Questa è la tua vita che va tutto male anche se va tutto bene. Il mondo è pieno di colori, ma per te, ma per te, ma per te. Che se così non è. Questa è la tua vita che va tutto bene anche se così non è. Le tue vie di mezzo è tutto nero, tutto bianco, mentre fuori il mondo è pieno di colori. Questa è la tua vita che va tutto male anche se va tutto bene. Il mondo è pieno di colori, ma per te, ma per